alle ferre di Giove le spongano tra boschi. In questa forma avrò regno, avrò Dario. Eccolo appunto. Argene, al vento sparse, abbiam le preci. A parole di più non so. Ucciderò i rivali, che mi ha ancor disperato, ucciderò. Se degno io ti rassembro, cambio per la Germana. Amor prometto e fede, immutabile e certa. Cieli, che strana offerta. Che rispondi, ammutici. Sarai tu la mia fiamma, degli amorosi tu guardi l'unica meta. E degni forse tace, e schernito io rimango e vilipesa, vuoi abbandonar l'impresa? Fingere dopo, ascolta, per la corona sola amo stati. Se ciò non fosse... Forse... Non l'ameresti? No. Lungi, cor mio, sta tirando da queste mura. Oddio, ma come e dove? Non so, so ben che cessi alla minor Germana, a sue ragioni prima. Onde teco sul trono, orme di fasto in prima. In traccia del mio vento disperato, san che avessi incontrato l'ultimo fato. Thank you.